Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Il rischio, come viene accennato in questo momento dalla regia, che io oggi voglio aprire facendomi nuovamente amico Vasco Rossi. Sì, dissi paroline non proprio gentili giorni fa in un servizio del giornale radio, in cui mi sembrava patetico che in realtà il giusto addio a una carriera artistica di rockstar scanzonata, trasgressiva, forse potrebbe essere usato un metodo un pochino più efficace per darlo, se non andare dal mollicone Mollica, che è l'icona del passatismo, della staticità, del parrocchialismo, della bontà, dello zuccherificio distribuito. Però lì Vasco Rossi è andato a dire che lui lascerà, abbandonerà la carriera di rockstar. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Patetica maniera per dire l'addio a una fulgida carriera, se vogliamo, che probabilmente era già finita 25 anni fa. E beh, del resto una rockstar nazionale popolare di messe italiana, appunto, non poteva che darlo da Mollica, era la cornice, è la cornice giusta, cioè non c'è nulla che lo avvicini a Sid Vicious, ai Sex Pistols, all'estremo, al bruciare realmente, c'è qualcosa di molto medio, molto contenuto, e il contesto di Mollica è quello giusto. Questa mattina non è che vogliamo parlare di Vasco Rossi, figuriamoci, in questa giornata in cui a Roma è festa. Questa mattina mi sono accorto che oggi era festa perché sono qui a lavorare e sto qui ancora a sbattere la testa sul muro, che non avevamo valutato questa giornata di lussuosa festività in cui potevamo andare a scorazzare felici e liberi tra le lenzuola del nostro letto fino a ore avanzate. Beh, questa mattina invece vorremmo parlare del momento di tragedia in cui qualcuno che è stato baciato dalla fortuna, dalla visibilità, dalla gloria, dalla fama, deve necessariamente fare i conti con se stesso e dire: bah, per me è finita, è meglio che mi metta da parte. Partiamo da un episodio che naturalmente ci suggerisce la cronaca, è quello più vicino a noi, ma poi ne avremo altri. Dichiaro felicemente conclusa la mia straordinaria attività di rockstar. Ci dai una notizia sensazionale. Ah, questa è veramente sensazionale. Felicemente conclusa la mia attività di rockstar, nel senso che continuerò a scrivere canzoni, magari anche fare concerti. Cioè ti dimetti da rockstar? Sì, esatto, basta, cioè io mi dimetto da rockstar, tutto qua. Non è che una cosa semplice stai dicendo. Sì, no, una cosa semplicissima, però dichiaro felicemente conclusa la straordinaria attività di 30 anni mica poco. Di rockstar. Ecco. Posso fare l'ultima domanda? Sì. E che attività comincia adesso? A questo non lo so, le canzoni le scriverò lo stesso, perché mi piace scrivere. Farò anche dei concerti, magari, non so, faccio dei concerti così all'improvviso. Ecco, l'abbiamo data fino in fondo, perché volevamo che saggiaste fino all'ultima goccia l'amaro calice della decadenza di un personaggio che comunque ha dato qualcosa al mondo dello spettacolo, ha fatto fremere generazioni di ragazzi, si sono sentiti trascinati da questo fulmine a ciel sereno, da questo cambio totale radicale, tanto che il Pio Jovanotti diceva: Vasco, non ci casco. Invece c'è cascato Vasco è cascato inginocchiato nel confessionale di padre Mollica, dicendo: interrompo la mia carriera di rockstar, come se, che ne so, un serial killer dicesse: da oggi metto la motosega nello sgabuzzino e comincio a coltivare l'orticello. La vita spericolata che affonda nell'adipe bianchiccio di Mollica. Ma stamattina riflettevamo con Fabrizio Intonti che sembra un benzinaio, cioè con tutto l'affetto, però col cappellino, no? Con grande rispetto per la categoria. Mio primo lavoro è stato fare il benzinaio. Lo vedi proprio che facciamo il cambio dell'olio, quelli che ti alzano il cofano, rassicuranti anche quando vai negli autogrill, insomma, ha questo look, questa mise. La tecnica del cambio dell'olio mi suggerivano i benzinai che mi istruivano, giovane apprendista benzinaio, perché anche questo fatto. Che occorreva infilare l'asticella lasciandone un po' fuori, facendo vedere che era mezzo secco. Dice: guarda, il segreto era mezzo chilo ci va sempre. Quindi mezzo chilo ci va sempre, tu basta la metti un po' dentro, guardi qua c'è bisogno, mezzo chilo ci andava sempre. Sì, mi hanno turlupinato anche a me di recente. Poi vedi, la metafora funziona, capito? Andare da Mollica significa che l'ultimo mezzo chilo di visibilità alla fine ce lo riesce sempre a far mandare giù. Sì, lo affidi appunto a questa cornice che è quello per il grande ratificatore di tutti gli artisti italiani. Andiamo avanti, perché Fabrizio Intonti ci fa quel segno con il dito indice a rotazione, come dire, andate avanti, state rompendo le scatole. 800240024. Quale segno avete voi della decadenza di un personaggio? Ma anche nella vostra stretta cerchia delle conoscenze, delle frequentazioni familiari, delle gerarchie professionali, quando vedete qualcuno che ormai cade in disgrazia, come esce dalla scena? Ecco, quali sono le fantastiche uscite di scena che potreste suggerire? Noi questa mattina ve ne ricorderemo qualcuna che appartiene alla storia del cinema. Attenzione, motore, azione! Così, malgrado tutto, sta girando il suo film. Il destino a volte è stranamente generoso e ha avuto compassione di Norma Desmond. Ecco, il sogno al quale s'era con tanta disperazione aggrappata, ora la culla dolcemente. Mio caro DeMille, ti spiace se dico due parole? Grazie. Voglio soltanto dirvi come sia felice di trovarmi nuovamente in uno studio, nuovamente al lavoro. Voglio dirvi quanto mi siete mancati tutti voi, ma vi prometto che non vi lascerò mai più, perché dopo Salome faremo un altro film e poi degli altri ancora. Vedete, certo, questa è la mia... Vincenzo Mollica non è von Stroheim e Vasco Rossi non è Gloria Swanson. Qua è una scena fantastica. Questo legame a vita tra due personaggi anche nel momento fatale della pantomima dell'uscita di scena. Questa è la grandissima Gloria Swanson, Il diario del tramonto di Billy Wilder, che appunto qui c'è l'intuizione del suo servo di scena, von Stroheim, che qui fa il maggiordomo, ma era un suo ex e nonché regista, che usa i reporter dalla cronaca nera per farle credere che mentre sta per essere arrestata sta vivendo la sua ultima scena. Sta portando al gabbio e invece lei simula a se stessa e al mondo di star girando l'ultima scena favolosa. Non sono io che non sono più grande, è il cinema che è diventato piccolo. Lei era una grande diva del muto, quando gli attori erano divinità reali nella loro essere muta, nella loro afonia, riuscivano a trasmettere questo senso sacrale nel silenzio interrotto dalla musica del piano delle grandi sale cinematografiche. È finite, immortale, chiuso, subentrato il sonoro, finisce la magia, si perde la magia di questi divi e lei è costretta a questa vita museificata. Però c'è questo finale, tra l'altro von Stroheim... Pensavo che Vasco adesso non potrebbe... Al contrario, iniziare una carriera da divo del muto. Sì, no. Ci fosse ancora il muto, tanto. Però avevano un impatto diverso, avevano questo niveo candore alla Rodolfo Valentino, appunto alla Gloria Swanson, che non so quanto il physique du rôle di Vasco possa attagliarsi a questo genere. Qual è il problema, allora, secondo te? Il divismo oggi si declina attraverso forme diverse, quindi non occorrono queste uscite di scena epiche, quindi c'è una sfumata lenta, tipo, non so, Simona Ventura va a Sky, oggi pagine intere sui giornali, è un'uscita di scena, non ci prendiamo in giro, però evidentemente esiste questa pietosa sfumata lenta dell'uscita di scena. Ma nel mondo warholiano dei 15 minuti di celebrità, per chiunque, non c'è più una decadenza da nessun Olimpo, siamo tutti in un lago stagnante, paludoso, in cui c'è... Perché si è abbassato il livello dell'Olimpo, è un saltino scendere dall'Olimpo oggi, non saltino, è una, una vertigine dell'abisso. Non c'è più il tramonto accecante, lo splendore estremo della decadenza, non c'è più neanche quel frammento di poesia che poteva dare questo tipo di situazione. 800240024, orsù, svegliatevi voi romani dal giorno di festa e nel resto del mondo dove si lavora normalmente, fateci sapere quale sarebbe la vostra uscita dalla scena, come vorreste voi uscire, perché ognuno di noi in fondo recita una parte, ognuno di noi nel suo microcosmo in un Olimpo. Ecco, come immaginate il giorno in cui vi saluteranno che andrete in pensione con i regalini, l'orologino aziendale, le pastarelline, il rinfreschino, il rinfreschino con le aranciate. Voi cosa farete quel giorno? Vi metterete il vestito bello, andrete dal parrucchiere, saluterete tutti e uscirete con lo scatoloncino delle vostre povere cose, con i ritratti dei figli, via dicendo. E che farete da quel momento? 800240024. In fondo, da quando nasciamo siamo un po' tutti sul Viale del Tramonto. Pagini, c'è una sigaretta? Volentieri, su. Grazie. No, Ciafanna. No, dico, tenga presente che sa otto lingue, è poliglotta. Ah, bravo, giusto adesso sto facendo un film di coproduzione con l'America. Ah, sì. Grazie, ma sì. A cavallo ci sa andare. Ci sa andare, so, a cavallo. A cavallo. Ma proprio a cavallo? No, peccato. Chiaro che se no se ne accorge. Magari il cavallo potrebbe portarlo a mano. A mano? Ma dove porta a mano? Almeno sopra c'è le montagne, anche se sta fermo. Ah, però sa fare le crachette. Chi? Il cavallo? No. Ah, lui. Scusi, Baggini, no, avevo capito. Non ha bisogno anche di un fantasista? Sì, mi serve un claquettaio. È più bravo di Baggini, dove lo trova? Modestamente. Faccia vedere. Qui. Dai, bacino. Faccia le clacchette. Non c'ho le scarpe adatte, c'è il tappeto. Le faccia così alla meglio, tanto per avere un'idea. Faccia alla meglio, alla meglio, capirete. Come? O si tappa, o si paga. Levate tutto. Questa è un'occasione unica per lei. Se le fa sul tavolo è lo stesso per lei. La scena rappresenta proprio uno che balla sul tavolo. Vedi, sei nato con la camicia, avanti, attacca, datti da fare. Scende da cavallo, va sul tavolo. Cosa ci fai? Aspetta, Bagini, annuncia prima il numero. Cosa ci fai? Beh, farò il treno, un mio cavallo di battaglia. No, zitti adesso, ma è a vapore elettrico sto treno. È terrificante questo momento. In realtà, nelle gradualità di uscita di scena, c'è anche quella che in realtà è l'entrata nell'inferno, non è un'uscita di scena. In questo caso si attua esattamente questa cosa. Il sadismo di chi rimane in scena fa sì che l'uscita sia un'uscita infernale. Questo io la conoscevo bene di Pietrangeli. In scena ci sono appunto Enrico Maria Salerno, che è il grande divo, Ugo Tognazzi, che è il vecchio attore di Man Spettacolo, e l'impresario Manfredi. E Tognazzi è un vecchio appunto attore di Man Spettacolo, spossato, logorato, chiamato a questa festa a interpretare la sua vecchia scena della claquette, ovvero dell'imitazione del treno attraverso il tip-tap, e quindi a esibirsi per un provino che in realtà non esiste. Quindi c'è il sadismo del grande divo che utilizza e mette in scena la goffaggine del vecchio divo di Man Spettacolo. Che finirà tragicamente attualmente. Sì, ci sarà poi questa sorta quasi infarto, ma quindi c'è il sadismo, l'incombere su chi non ce l'ha fatta. Tra l'altro Tognazzi fa una citazione biografica, per lui veniva veramente da quel mondo della Man Spettacolo ed era approdato gradualmente al cinema comico leggero e poi ai grandi film con Pietrangeli, con Ferreri, con Salce. Quindi c'è una sorta di citazione del suo mondo, del suo essersi costruito, il suo arsenale di attore nella rivista. Beh, questa diciamo fa parte delle uscite di scena legate al vituperio. L'accelerare di questo treno che porterà al quasi infarto somiglia tanto al disperato chicchirichì del professor Unrat nell'Angelo Azzurro. Sono due persone vecchie, ormai fuori, che hanno tradito ogni loro ruolo e la società non li rappresenta più, non hanno più luoghi di rappresentanza, e soltanto nell'esporre la loro ridicolaggine hanno possibilità di sopravvivenza, ma una sopravvivenza effimera, mesta, che li porterà all'inferno naturalmente. Però c'è qualcosa di poetico che mi richiama a quello che dicevi tu. In fondo è un po' una metafora dell'esistenza stessa, che è votata, anche se noi lo rimuoviamo completamente, continuamente, alla rovina in qualche modo, perché l'arco esistenziale è quello. Quindi cogliere e viverlo in maniera poetica e riuscire a dare intensità poetica a questi momenti ha un suo fascino, riguarda un po' tutti noi. Non ho mai trovato poesia nella decadenza. Somiglia al vecchio che si tinge i capelli, quello che si tira la faccia, quello che si veste da ragazzino, la vecchia che si gonfia le tette. Sono momenti patetici. Non esiste una chiave poetica in assoluto. Però dipende da come le osservi. Pietrangeli qui riesce a dargli dignità e forza, mettendolo in una sorta di situazione, mostrando le varie nature. Se li osservi in fase giovanile tiraggio, puoi anche ironizzarci e trarne lezioni di vita. Se sei coevo agli esempi di decadenza, niente, sei finito, devi rassegnarti. Elisabetta. Buongiorno. È pronta al viale del tramonto? Ma guardi, io sono ancora piccola, posso dire, devo ancora crescere. E non è sta già cominciando a pensare però al tramonto. Più o meno, cioè, quando ne stavate parlando prima e mi è venuto un po' da ridere perché ho pensato chissà mai se andrò in pensione un giorno. Ma lei cosa fa nella vita? Vediamo di organizzare il suo tramonto. Io lavoro in aeroporto, lavoro per l'Alitalia. Per l'Alitalia, beh, diciamo ci è passata già vicino più volte al viale del tramonto, quindi... è proprio per quello. È risorta recentemente, quindi già è abituata a quello che sta succedendo. È proprio per quello. Ecco, come vede lei il suo viale del tramonto? Lei cosa diventerà? Capo assistente di volo? Qual è l'apice della sua carriera? No, l'apice della mia carriera è la famiglia soprattutto. No, non mi prenda in giro. L'apice della sua attesa professionale. Lasci perdere la famiglia. Nella mia attesa professionale sto benissimo. Ma cosa può diventare più di quello che è? Ma potrei diventare responsabile in aeroporto. Perfetto, responsabile di aeroporto, di Fiumicino diventa. Sì, sì. È l'ultimo giorno di lavoro in cui stanno già lì come cani assetati, le sue colleghe prenderanno il suo posto. Come vede questa sua uscita? Cosa fa? Esce dall'aeroporto, dall'uscita passeggero, va a voli internazionali, monta in un aereo e scompare per sempre. Decida il suo viale del tramonto. Sì, l'ultimo giorno del mio lavoro io avrò un biglietto in mano, quello è sicuro. Ah, benissimo, senza ritorno. Sì. Ma con un ritorno diciamo indefinito, va? Perché comunque voglia di tornare poi c'è, però non si sa quando. A voi dell'Alitalia ve li danno gratis quando andate in pensione un biglietto senza ritorno? No. Sì, fa parte della sì. liquidazione, quindi già fa parte del pacchetto. Avete già un viale. E come si vestirà? Metterà la divisa aziendale o darà una botta di vita? Assolutamente se no. Che sono abbastanza tristi, con le gonnine verdi, con le cose lì fanno un po' pena. Infatti, quelle per lavoro. Poi si vestirà di rosso, come le linee aeree. Di rosso. Perfetto, di qualche paese esotico. Va bene, abbiamo visto, vedi che è facile pensare al proprio viale del tramonto. Alessandro. Alessandro. Buongiorno. Come tramonterà lei, Alessandro? Io sarei già quasi tramontato, dirlo. Anni. Ci dica quello che accadrà da qui a pochi istanti, allora. Ma io posso dire quello che è accaduto ai miei colleghi. No, parli di lei, lasci i colleghi. Colleghi di me, chiaramente sarò uno di quelli che chiaramente uscirà dalla porta e entrerò dalla finestra come ha fatto tanti altri. Cioè entrerà dalla finestra, si butta dalla finestra? No, entrerò dalla finestra del posto di lavoro. Ecco, ma lei qual è? Dice, in questo momento qual è il luogo di rappresentazione della sua gloria da cui uscirà? Che lavoro fa? Sono un insegnante di autoscuola. Ah, benissimo. Una figura importante. Sì, però date le esperienze vissute, dato chiaramente da quello che ho visto dei colleghi miei che sono usciti dalla porta poi sono rientrati dalla finestra. No, c'è dell'ironia in questo e dell'amarezza. Cosa succede? Finiscono il lavoro, però abusivamente esercitano la professione. Perfetto, proprio questo. Ah, esiste l'istruttore abusivo? Esistono gli istruttori abusivi. Ma che tipo di titolarità hanno? Cosa, non possono dare nessun attestato? Lei sa benissimo che in Italia purtroppo succede anche questo. Ma l'abusivo cosa fa? Si apposta lungo i marciapiedi, ferma le signore, dice guardi se vuole... No, si apposta presso le motorizzazioni civili e raccatta chiaramente qualche allievo inesperto. Sì, ma non valgono le lezioni per dare l'esame della patente, fatte con un abusivo. Valgono, perché gli esami li fanno ugualmente comunque con queste persone. Ah, fa un privatista, fa il privatista, diciamo. Esatto, fa il privatista, però fa più di un certo l'importante modo. È che insegni, capito? Beh, e questo è illegale, è illegale questa attività? È illegale, chiaramente è illegale. E lei vorrà fare questa cosa qui? No, ma non mi dica che questa è la sua uscita gloriosa. No, io non uscirò così perché chiaramente ho già fatto le esperienze vissute da altri, non voglio arrivare a questo. Eccola come esce gloriosamente. Io lascerei l'automobile con dentro, diciamo, la schiappa, la prima guida, in mezzo, che ne so, a un incrocio violentissimo di un'autostrada, e poi dico scendo un attimo, lascerei lì. Questo sarebbe no, bello. Non può essere, perché no. Sarebbe una cosa troppo pericolosa. Un'apoteosi. Ci ho senz'altro la testa alta, perché io sono uno convinto che chiaramente il maestro può essere superato dall'allievo. Va bene, lei non vuole lasciare una traccia di sé mesta ma profonda, quindi non avrai nulla di glorioso. Michele? Buongiorno Nicoletti, sì, ci sono. Velocemente, il suo viale del tramonto. Sì. Non il mio viale del tramonto, io volevo parlare di quanto è triste l'uscita di scena dei professori universitari. Quindi pensa già al suo? No, ancora non lo so, forse non lo sarò mai, ma notavo come ai convegni sia veramente patetico e malinconico queste figure di professori che ormai non si fila più nessuno, perché non possono più andare nei concorsi e quindi la gente che prima decostituiva il codazzo, gli chiedeva come stanno i nipoti, come se si trovavano bene, gli offrivano qualsiasi cosa. Non si ricalcola più nessuno. Non se li fila più nessuno e questi cercano deroghe alla pensione. E comincia a venirgli addosso quell'odorino misto di liquame che è tanto poco piacevole. Sì, inizia prima in forma sociale, prima ancora che... No, perché secondo me il professore in uscita ha un po' di liquamoso, come ce l'ha naturalmente il barone in ascesa, è lo stesso odore più o meno. Certo. Beh, mi dica, per lei invece, come lo immagina? L'ultima lezione, non so, vorrà fare una cosa favolosa, tipo sì, capitano mio capitano. Un gesto futurista. Si suicida? No, non esageriamo. E cosa no, allora? Lo dica. Non lo so. Vabbè, lo ci so. Pensi che ci farà piacere saperlo. Ehi, ciao. Allora, come andiamo? Ciao, io sono Tommy. Sono contro di te stasera. Ti conosco, Tommy. Ti ho visto in Pennsylvania un paio di mesi fa. Ad Allentown. Sei stato forte, ci sai fare. Grazie, grazie. Continua così, amico. Sai, quelli con le Cadillac che gestiscono il business se ne fregano del talento, quindi tieni duro. Sì, lo so. Ok. Ma invece questa sera non so tu che vuoi fare. Io avrei qualche idea. Pensavo, sai, per scatenarli un po' potrei darti un colpo basso seguito da un bulldog. Ma tu fatti odiare e basta. Dovete alzarli subito contro di noi. D'accordo. Continuate a picchiare e non mollate mai. Boom, boom, boom, boom, boom. Noi usciamo. Ci mettiamo sulle... Allora, Giuseppe Sansonna, torniamo alla realtà rappresentata dalla fiction. Avete visto mesti esempi di uscite dal glorioso mondo del lavoro, se così possiamo chiamarlo. Qua invece di cosa parliamo? Questo è The Wrestler di Aronofsky, che il regista qui attaglia su Mickey Rourke, un ruolo che richiama molto al suo arco esistenziale. Mickey Rourke era la sex symbol degli anni 80, di 9 settimane e mezzo con Kim Basinger, era appunto dell'anno del dragone, il divo di Cimino, il divo di Rusty il selvaggio di Coppola, era una sex symbol. Sì, fino agli anni 80 era veramente l'uomo più desiderato da tutte le parrucchiere, le impiegate, le mie colleghe. Mickey Rourke era al massimo, lo guardi adesso. Si è lasciato percuotere dalla vita, si è autoinflitto incontri di box e vari eccessi di ogni tipo. Si è anche gonfiato la faccia in maniera bestiale. In ogni senso. Oggi è una sorta di iguana ossigenata in questo film, appunto a questo fisico sovradimensionato di anabolizzanti, di estrogeni, e si presta al ruolo avanspettacolare del wrestler, appunto di questa simulazione di lotta greco-romana antica, che però ha questo lato molto finto, molto barocco, e finirà appunto così, in questo viale del tramonto molto messo. Allora, 800 24 00 24, prima delle informazioni della borsa, vediamo adesso. Riflettete anche sulle uscite di scena, non soltanto dal mondo del lavoro, ma anche dalla socialità, dal fascino, dalla possibilità di relazione avanzata. Quando è che un giorno appenderete al chiodo lo strumento del vostro orgoglio e deciderete che per voi è finita? E come lo farete? A tra un istante. Email meloc@radio24.it.